picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. L'undicesima puntata di Picchi di Frequenza comincia con la seconda parte della lunga intervista con Zeo cominciata la scorsa settimana. Avremo poi un incontro con il collettivo alpino zapatista e le sue proposte per il mese di novembre. In chiusura una recensione un po' particolare, ma prima le notizie della settimana. Vediamo un po'. È un reality, genere schiettamente indigeribile, figlio della peggior televisione. Come tale, ci troviamo i soliti campioni umani di celebrità, un po' bollite o semisconosciute se vogliamo, ma pur sempre celebrità, che rappresentano i personaggi della commedia all'italiana, ma alla vanzina. La bellona procace, il ganzo col fisico, l'antipatico, in questo caso con poca fatica a interpretare il ruolo, il simpaticone, la svitata, la nevrotica e il campione del cuore, perché un pallonaro, in Italia, tira sempre. E infine, ultimi ma non ultimi, la conduttrice improbabile e il Simone Gennaro Olivieri Moro. Ora, pretendere che questa specie di giochi senza frontiere del verticale sia in grado di far passare nozioni e cultura di montagna al grande pubblico, come sostiene Moro in una sua intervista, è un po' come sostenere che guardare il Dottor House insegni a fare diagnosi mediche. Qui si tratta di spettacolo quasi circense, di gioco, di show un po' voyeuristico, come tutti i reality, nel quale lo spettatore per lo più spia, come dal buco della serratura, i momenti difficili, felici, privati, i litigi, quanto reali non si sa, delle celebrità. Che sia il bagno a chiappe al vento della diva o i pianti disperati della cantante. Ma non sempre quello che vedi dal buco della serratura è piacevole. L'articolo completo lo trovate su Monte Bianco, un reality show di Manuel Lugli su planetmountain.com. La seconda notizia di quest'oggi, tratta invece da montagna.tv, ha un titolo assolutamente eloquente: svolta del meteo dopo il 20, irruzione artica con freddo e neve. Si parla di un tracollo termico di 10 gradi dopo un inizio autunno più che temperato. Mentre la terza ed ultima segnalazione di quest'oggi la trovate sul sito dislivelli.eu. È 25 novembre, immigrazione straniera nelle montagne italiane. Si parla di un convegno organizzato appunto da Dislivelli in collaborazione col Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca, appuntamento nell'edificio U7, Aula Pagani. Le recenti notizie di cronaca sulle emergenze di persone sfollate da paesi in guerra verso paesi in grado di fornire loro un rifugio, Italia compresa, ha portato i territori alpini alla ribalta come possibili aree in cui ospitare questi richiedenti asilo. Spesso in queste vallate si confrontano e si scontrano parecchi soggetti, cioè l'istituzione, quella centrale che vorrebbe, come dire, che lavora a ridurre gli sprechi e quindi taglia i fondi alle comunità montane, ci sono le comunità montane che per esercizio loro piangono miseria, c'è poi la microimprenditoria o comunque c'è, no, insomma, quei gruppi di ragazzi, di associazioni che prendono in mano le cose e dal basso provano a fare un qualcosa anche di nuovo, di più creativo. Ci sono i popolani con le loro aspirazioni e anche, come dire, le loro chiusure ai riabitanti, no? A chi arriva magari dalla città e pensa di avere l'idea giusta. Qual è l'alchimia che nella tua esperienza di questi mesi, di questi anni hai scoperto? Ma l'alchimia è molto interessante perché secondo me c'è questa cosa, no? Si dice sei di via. Quando uno è di via, nel senso che arriva da fuori, rimarrà, parlo a livello antropologico, in comunità così piccole sarà sempre uno di via. Però quello che ho, per esempio, ho visto sulla mia pelle, no? Anche se io sono arrivato lì 22 anni fa come turista, e solo l'inserimento nella mia frazione, che è una frazione molto piccola, non è stato facile nei primi 5-6 anni. Ora la frazione, cioè sono parte della frazione, non so come dire, anche dal punto di vista della sussistenza, mi danno le uova, l'insalata, comunque c'è un rapporto, come dire, molto integrato. Penso che questo sia uno scotto, almeno per la mia esperienza, ma penso che sia uno scotto che c'è in tutte le comunità montane. Comunque chi arriva da fuori deve avere secondo me un approccio omeopatico. Io quando ho iniziato a lavorare lì avevo 8.000 progetti, sai, da milanese start-upper, cacchio, si fa di qui, si fa di là, si fa di giù, poi ho capito che dovevo cambiare marcia perché avrei impattato malissimo. E quindi diciamo che secondo me ci vuole un approccio omeopatico, come chiamo io, no? I ragazzi che citavo prima, alcuni sono di via anche loro. La cosa interessante è che però hanno coinvolto ragazzi, giovani generazioni di Gressone, e questo secondo me è la chiave, comunque coinvolgere, cioè arrivare sempre senza mai stravolgere comunque la tradizione, l'antropologia locale, con delle visioni. Rispetto al tema delle comunità montane d'Italia, purtroppo è una situazione abbastanza drammatica, perché purtroppo la scure sta arrivando anche in Val d'Aosta, che ha goduto per anni di possibilità rispetto alle altre regioni, soprattutto nelle comunità montane molto molto, insomma, molto positive. Ora invece abbiamo problemi, per esempio, sulle microcomunità di anziani, e la riorganizzazione dei servizi, eccetera, eccetera. Per cui è molto complesso, perché gestire poi in realtà valli che hanno questa forte parcellizzazione in frazioni, cioè Gressonei, tra le due Gressonei penso ci saranno quasi 42 frazioni. Pensate che le frazioni sono abitate quasi esclusivamente da persone anziane, e quindi qua diventa molto interessante secondo me il discorso anche della prossimità, dell'aiuto, per esempio, che le persone che vanno a vivere nelle frazioni magari scelgono, perché siamo tanti, per esempio, milanesi che siamo andati a vivere comunque in questi ultimi 20-15 anni a Milano. Per cui la prossimità diventa una chiave, secondo me, del futuro di queste valli, cioè ritornare anche a, innanzitutto, tenere i giovani nelle valli. E quindi la chiave del turismo, diciamo, intelligente, del turismo, dell'agricoltura rivista in questa chiave, può essere sicuramente un tema. La burocrazia, devo dire, purtroppo, parlo per esperienza diretta appunto di questa mia famiglia, chiamo mia famiglia perché la considero mia famiglia, che sta ristrutturando delle baite e vorrebbe fare una sorta di piccolo rifugietto senza grosse pretese. Poi i vincoli burocratici sono veramente incredibili, e anche dal punto di vista della produzione loro casearia, comunque i piccoli hanno una serie di menate e di stress burocratici veramente incredibili, per cui paradossalmente fanno un lavoro incredibile di manutenzione, di traduzione, di qualità, eccetera, eccetera, del famoso chilometro zero, o comunque del prodotto di qualità, e poi però hanno molte penalità rispetto alla grande produzione. Se dovessi in 30 secondi, con due riferimenti, due link, farci vedere quello che ci hai raccontato, cosa ci consigli? Ma allora, vabbè, sembra un po' uno spottone, però siccome la gestisco io cerco di darci anche un'impronta un po' generalista. Si può fare. La pagina Visit Gressonei, che fondamentalmente nel palinsesto delle notizie cerco di dare un po' di tutto quello che è il taglio nostro, di quello che succede nel territorio, ma anche appunto dal punto di vista culturale. Poi vabbè, c'è la mia pagina Lo Valle, se volete scoprire la Valle di Lo. E chiaramente ci sono dei riferimenti al Tour de Géant, a quello che si fa nel Tour de Géant. Penso che questi due, poi se volete scrivermi nella Luvalle, volete venire a farvi un giro, volete delle dritte, tenetemi, ecco, la cosa, come informatore locale, su cosa si può fare o non si può fare per passare dal linguaggio radiofonico all'immagine viva. venite, scoprirete veramente una valle autentica, ecco, questo ve lo posso garantire, insomma, un posto che mantiene storia, radici e cultura in maniera pregnante. Il collettivo alpino zapatista promuove una 2 giorni con la presentazione di Selvaggio Blu in Università a Genova all'Outout 357. Invece sabato 21, poi rinviata per maltempo, quindi sabato 28 con partenza alle 8:15 alla Casa del Popolo Isoverde, un'escursione tra i luoghi della resistenza di ieri e di oggi, che sono i luoghi dei Monti Liguri, ma anche quelli della lotta al Terzo Valico. Quindi ti chiedo un attimo di presentarci queste 2 giornate e, insomma, di raccontarci un po' qual è lo spirito che le anima. Ma partono da una riflessione che abbiamo fatto al rientro, diciamo, da un'estate di arrampicate, di gite in montagna, magari alpinisticamente più impegnative, ed è una riflessione su in realtà il nostro territorio, cioè quindi insomma ritornare un pochino autunnali sulle nostre montagne, sui nostri territori e ripartire da lì. La giornata di mercoledì, che a questo punto verrà prima della gita, è una giornata che infatti prende le mosse da questo documentario che è stato girato da due escursionisti alpinisti genovesi durante, diciamo, la gita che hanno fatto a Selvaggio Blu in Sardegna nel Golfo di Orosei, che è un trekking molto famoso e molto bello, e nel quale però loro hanno cercato di del quale hanno cercato di dare una visione non soltanto, diciamo, escursionistica e tecnica, ma anche diciamo sociale, quindi occupandosi anche di quelle che sono le economie del territorio e il come si vive nei luoghi che, diciamo, contornano il trekking, quindi cercando di fare un'operazione che non fosse semplicemente quella della gita mordi e fuggi, per cui arrivo sui luoghi, faccio il trekking, riprendo la barca o la macchina e me ne torno a casa, ma invece cercando anche di capire dove questo, come si vive, diciamo, in questi luoghi. E la gita di sabato prossimo, che doveva essere domani ma danno 40 nodi di vento, quindi forse è meglio rinviarla, invece si occupa di quella che è, diciamo, la battaglia territoriale sicuramente in questo momento più importante a Genova, nel nostro entroterra, che è quella contro il Terzo Valico, quindi contro l'alta velocità commerciale tra Liguria e Piemonte. È una battaglia che va avanti da anni e che coinvolge soprattutto una vallata a questo lato dell'Appennino, che è la Val Verde, quella che appunto va da Cravasco, Iso Verde, eccetera, che è una vallata che è stata protagonista anche ovviamente negli anni della resistenza al nazifascismo, nel senso che appunto è una vallata di collegamento fra Liguria e Piemonte, anche abbastanza impervia, e quindi è stata teatro di combattimenti, ma anche di rappresaglie, di eccidi. Il posto dove stanno scavando attualmente il Terzo Valico, la finestra del Terzo Valico, ovvero Cravasco, che è quello che, dove stanno anche adesso stoccando nelle cave le rocce amiantifere, per cui il cantiere è stato bloccato dalla Procura della Repubblica e dall'ARPAL, è un luogo di grande memoria storica, è stato, diciamo così, teatro di rastrellamenti, di eccidi e di un incendio appiccato dalle forze nazifasciste, che ha praticamente raso al suolo il paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da lì la nostra escursione avrebbe toccato e toccherà sabato prossimo alcune delle cime lì intorno, che oltre ad essere molto belle dal punto di vista paesaggistico e quindi assolutamente da preservare e non da bucherellare come stanno facendo con i lavori del Terzo Valico, sono appunto anche luoghi densi di storia. Passeremo infatti da Passo Mezzano, che è uno dove c'è, diciamo così, una lapide a alcuni partigiani che furono lì uccisi dopo essere scappati e scampati solo per pochi giorni, purtroppo, dall'eccidio più famoso della Benedicta. Senti, quindi dicevi che c'è una storia di anticorpi che lega la resistenza di ieri con le resistenze di oggi alle nocività. Per quanto riguarda la gita vera e propria, è una gita per tutti? Qual è il livello di difficoltà? Quali sono gli appuntamenti per arrivarci? Guarda, in realtà avevamo inizialmente pensato a una gita più impegnativa, anche dal punto di vista così del dislivello, quindi saremmo partiti da Cravasco per arrivare fino, diciamo così, sulle Figne, mettendo insieme un 800 metri di dislivello. Fortunatamente però poi, mentre nei giorni subito successivi alla presentazione della locandina e anche diciamo così, la prima volta che abbiamo messo per iscritto questo percorso, si sono aggiunte moltissime persone, soprattutto legate alla lotta contro il Terzo Valico. Quindi parliamo di persone anche non legate al mondo dell'escursionismo, dell'alpinismo, eccetera, e quindi abbiamo ritenuto più opportuno visitare gli stessi luoghi, ma partendo da un po' più in alto, e quindi, diciamo, con un dislivello minore di un 300 metri anziché 800, ma con un anello più lungo e più panoramico di circa 4 ore. Perfetto, in ultimo ti chiederei di ricordarci i contatti, i riferimenti del collettivo Alpino Zapatista, e insomma, nella speranza che a partire da questa gita e magari anche nelle prossime, come ci siamo ripromessi in più di un'occasione, ci sia lo spazio per incontrarsi dal vivo. Quindi dacci due riferimenti per restare in contatto con voi e seguire un po' quella che è la proposta sia sportiva che culturale del gruppo. Dunque, noi abbiamo una pagina Facebook che è appunto CAT Collettivo Alpino Zapatista, un blog che è Collettivo Alpino Zapatista noblogs.org e una email che è cat@insiberia.org. Per questa undicesima puntata di Picchi di Frequenza mi sono tenuto qualche minuto libero per un paio di comunicazioni. Anzitutto, se ci state ascoltando in FM o in diretta streaming, siete nel Bresciano, l'invito è a muovervi in direzione del Magazzino 47, dove insieme ad altri compagni di Rojava Resiste faremo una serata, insomma, con una cena solidale e un momento di approfondimento su quel che accade nel Bakur e nel Kurdistan all'indomani degli attentati di Ankara e della tornata elettorale. Mentre, come già anticipato nel corso delle ultime due puntate di Picchi, per domenica 22 novembre, con partenza alle ore 7.30 da Milano, piano terra, quartiere Isola, 7.30 sempre dalla Valcamonica al parcheggio di fronte alla stazione di Pisogne, 8.30 da Brescia al Magazzino 47, insomma c'è da convergere verso la frazione di San Michele, 550 metri sul livello del mare, per fare cosa? Per la prima gita sociale della nascitura sezione bresciana e dintorni dell'APE o Associazione Proletari Escursionisti, insieme a Camunia Paranoica Escursionismo, insieme a Radio Onda d'Urto, insieme al collettivo Gardesano Autonomo, per una bella e collettiva gita sociale al rifugio Giorgio Pirlo allo Spino. La durata per la sola salita è di circa 3 ore, ma non fatevi spaventare dai tempi, perché la gita è assolutamente alla portata di tutti ed è su ampia carrareccia. Per chi ha invece ambizioni di tipo alpinistico, ci sarà comunque, in occasione appunto del percorso, di staccarsi dal sentiero principale per percorrere la via ferrata dello Spigolo della Bandiera. Portatevi il pranzo al sacco se non volete mangiare rifugio, ma soprattutto fate girare la voce, passate la voce, perché è un momento, insomma, per noi importante. Sarà un momento per incontrarci con la comunità che ruota attorno all'APE di Milano, a Picchi di Frequenza, a Radio Onda d'Urto, e può essere un'occasione appunto per testare, per sondare l'interesse a mettere in piedi un gruppo anche nel Bresciano, insomma, che porti avanti, prenda in mano il testimone della storia centenaria dell'APE. Non mi dilungo oltre, un ultimo pezzo e poi andiamo a concludere con la consueta recensione. Questa settimana, a cura di Luca Trada, torniamo sul tema del Unreality Show del Monte Bianco, perché non riusciamo a farne meno. Dove sei nato tu, ora c'è una petroliera ancora, e quelli che vivevano nel tuo quartiere ora ci lavorano sopra e dicono di starci bene. Il discorso ha preso il via su Rai 2 l'ennesimo inutile reality game Monte Bianco. Il titolo ci dice tutto. Un gruppo di personaggi più o meno famosi, ex calciatori, giornalisti, frequentatori abituali dei salotti televisivi, si cimenta da neofila in una sfida che li deve portare a raggiungere la vetta del tetto d'Europa. Tralasciando ovviamente ogni giudizio su quello che sono i reality game, ci interessa approfondire in questo caso l'aspetto per noi più caro, ossia l'ambientazione, il Monte Bianco, le sue valli sul lato italiano, l'ambiente alpino per eccellenza. Bene, crediamo che questo reality abbia ben poco a che fare con la montagna, con la sua cultura, il suo ambiente, e sia invece l'ennesimo tentativo di trasformarlo in un Luna Park, ad uso e consumo di chiunque, fa niente se con quella montagna non c'entra nulla per abitudini, comportamenti, approcci anche a quello che è il mondo della montagna, vissuto più come una sfida sportiva che non come un ambiente da rispettare, con cui provare a cercare armonia e trattendone anche un beneficio da un punto di vista psicologico e quant'altro. Bene, tutto questo non c'è ovviamente in Monte Bianco, semmai c'è tanta tristezza nel vedere un alpinista di fama internazionale come Simone Moro e le guide alpine che l'accompagnano prestarsi a questo ennesimo mercificio della montagna, sempre meno ambiente e sempre più palcoscenici per show e sfruttamento ad uso turistico e di profitto. Crediamo che Monte Bianco non sia niente di peggio e niente di meglio di altri reality game, ma sicuramente non è niente a che fare con la montagna vera. Anche l'11ª puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Se avete idee, segnalazioni, suggerimenti, potete scrivermi anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, quindi all'account sul social network azzurro @tabuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Noi ci risentiamo come sempre su Radio Onda d'Urto, come sempre venerdì prossimo alle ore 20.